Zazà non era partita per pescare i gamberetti, né per scoprire il mare, lo iodio e la salsedine così benefici per i giovani polmoni cittadini. Come aveva sostenuto presentando il suo progetto di viaggio l'indomani della festa. Sarebbe partita anche per Les Creusot o per Henin Liethard a cercare vestiti e grembiuli da cernitrici se per caso Alex fosse stato incaricato di fare costumi per Germinal. Zazà era partita per essere presa sul serio da Alex, ed era per essere presa ancora più sul serio che le era parso astuto farsi prestare il rossetto dalla nipote dell'Alvernat, prima di confidare ad Alex che non voleva più andare a scuola, che desiderava lavorare e che bisognava che lui le desse una mano per dirlo a Olga. Lui l'aveva ascoltata, ma Zazà ignorava se l'avesse sentita bene, perché c'era molto rumore e anche la nipote dell'Alvernat che lo stava sempre a guardare. E poi c'era stata la proposta di Alex ai due vecchi, che lei aveva sentito e ritenuto come meglio non si può. E aveva detto ad Alex che se dava la sua fiducia a dei vecchi che non se ne intendevano affatto, poteva dare un'opportunità a qualcuno di giovane che era cresciuto ai piedi di due manichini da sarta. Ma siccome sapeva che non l'avrebbero lasciata partire sola con due vecchi a pesca di costumi bretoni, aveva convinto tutti i giovani dei paraggi che era tempo di andare a scoprire il mare, fosse pure in compagnia di due vecchi. Allora erano partiti e Stepan aveva davvero torto di stare a preoccuparsi. Zazà sapeva esattamente quello che voleva fare delle sue 10 dita, della sua testa e della sua vita. Ed era assolutamente la sola tra tutti i passeggeri della grossa attrazione anteriore a dirsi che andava a lavorare. Lavorare per Alex, perché era anche la sola a essere innamorata di Alex da quando aveva 10 anni. Le rarissime cartoline che scarabocchiavano a turno dicevano che il tempo era bello e che si divertivano. In realtà era anche meglio di così. Il tempo era decisamente splendido e anche loro se la spassavano un mondo come non se l'erano ancora mai spassata nella loro vita di bambini piccoli, di bambini grandi e poi di adolescenti. E la cosa più spassosa era che se la spassavano insieme e grazie a dei vecchi ancora più vecchi dei loro vecchi. Più vecchi, meno belli, un po' fannulloni, bevitori, giocatori, farfalloni e seduttori, seducenti ancora. Quei vecchi avevano una superiorità incontestabile agli occhi dei ragazzi di Rue de la Mare. Non erano i loro propri vecchi. Proprio per questo si poteva spassarsela tanto con quei due adulti. Ammesso che Andrei Gromov e Isidor Barsky si potessero permettere di rivendicare la qualifica di adulti altrove che nei registri alberghieri su cui facevano seguire i loro nomi dalle date e dai luoghi di nascita indicati sulle loro carte d'identità francesi, le quali carte, provviste di ogni custodia protettiva, avevano l'aspetto di carte con cui si fosse giocato abbondantemente e non sempre con mani molto pulite. L'usura testimoniava la loro anzianità e insieme rivelava con quale mancanza di serietà i loro titolari trattassero quegli insostituibili documenti. Dai genitori Gutmann, Roginski, Nussbaum, le carte di francesi naturalizzati, ben leggibili sotto la trasparenza dell'amica, erano chiuse nei portafogli, sempre a portata di mano. Invece, se dall'uno o dall'altra tasca di Gromov e di Barsky finivano per saltar fuori, era sempre dopo aver frugato per un bel po'. Poi veniva il momento dell'intenerimento davanti alle fotografie che li mostravano così giovani, subito seguito dall'esplosione della loro costernazione e della loro incredulità davanti alle realtà della vita che avevano fatto di loro dei cinquantenni francesi. Lo sketch era più o meno bene accolto dagli addetti ai registri alberghieri, sempre invitati a condividere quelle diverse fasi dell'operazione detta di registrazione dei viaggiatori. I ragazzi ne avevano avuto un assaggio a Redon, prima sosta notturna della spedizione Printemps Fusil Grégoire. Li aveva talmente fatti ridere che la richiedevano a ciascuna delle nuove tappe. Tappe numerose. Lo sketch migliorava di albergo in albergo. A volte Gromov e Barsky arrivavano al punto di versare calde lacrime sui loro ritratti di gioventù. A volte uno di loro assicurava di non aver mai imparato il francese. Una volta Barsky fece il cieco e Gromov il sordo, sia davanti agli alberghi che alle locande, ai caffè lungo la strada o alle pensioni familiari. I ragazzi scendevano di macchina per primi, si piazzavano nelle prime file davanti al banco e aspettavano l'ingresso dei clown sulla pista. Non se ne stancarono mai. Tornarono a casa dopo 10 giorni, abbronzati, con i capelli appiccicosi di sale, sorridenti ma poco loquaci. Ripeterono che il tempo era stato bellissimo e che si erano divertiti molto. Il bottino della spedizione Printemps Fusil Grégoire era troppo abbondante per entrare nella Citroën. Arrivò alla Gare Montparnasse in due capaci bauli di vimini comprati a Vannes. Furono aperti in casa Bonnet alla presenza di Alex. Fu la qualità di ciò che contenevano più che la quantità a sorprendere Alex. C'erano giacche, vestiti, pantaloni, cappelli in ottimo stato e poi c'erano gli stracci. Stracci consumati dal tempo, ma i cui vari pezzi stavano miracolosamente insieme grazie a pannelli di velluto, di taffetà, di moire, di raso e di felpa, pieni di ricami di seta, di perle multicolori e di fili d'oro e bottoni d'argento, d'ambra, d'avorio, di solfuro, di conchiglie o di legno prezioso. C'erano cinture a brandelli, sulle cui fibbie di rame si leggevano motti e simboli sconosciuti e capi di corredo da sposa orlati di trine, cifrati, ingialliti nelle pieghe per non essere mai serviti. C'erano calze di cotone rosso, scialli da vedova e perfino dei cercini di paglia per proteggere le teste dei bambini piccoli che imparavano a camminare. I tesori dei bauli dimostravano una finezza nella scelta, per cui Alex si rallegrò con Barsky. È stata la ragazzina a scegliere ogni cosa. Noi ci occupavamo della conversazione e io mercanteggiavo, rispose lealmente Barsky. Alex allora si rallegrò con Zazà. Zazà arrossì e abbracciò Barsky, il che piacque relativamente a Olga e a Sonia. Barsky non era mica della famiglia. Non c'era nessuna ragione perché si mettesse a fare lo zio Isidor così da un giorno all'altro. Facevano male i loro conti e con loro tutti i genitori di Rue de la Mar. Erano state 10 giornate e 10 domani che i figlioli avevano vissuto lontano da loro. Nella fretta di raccontare parlavano del mare, degli scogli, della sabbia e del burro salato, del far, che è un budino con le prugne, e del noa, un'uva non ancora matura ma che ha già un sapore di lampone, delle barche con lo scafo nero e le vele rosse che chiamano Sinago nel golfo del Morbihan. Sinago? Sì, Sinago. Di creperie e degli allineamenti di Karnak. Ma non raccontavano le loro vere scoperte, che Gromov aveva una moglie e un figlio già grande, che tutti e due vivevano a Londra, dove lei era pianista e lui medico, che Mark poteva recitare a memoria tutta la tirata di Marcantonio nel Giulio Cesare, in inglese e addirittura nell'inglese di Shakespeare, e che aveva fatto 12 mesi di prigione a Odessa verso i 16 o i 17 anni per agitazione, come diceva lui. Proprio all'epoca in cui Gromov frequentava assiduamente i casinò, montava dei purosangue e guidava le prime torpedo. Ma che conoscevano tutti e due, sulla punta delle dita, il nome di tutte le stelle a forza di bighellonare di notte. Era da quando Bashki stentava ad addormentarsi e la cosa risaliva ai tempi in cui amava una cantante di cabaret che lavorava fino all'alba e che era morta, ma era roba talmente vecchia ormai. Talmente vecchia che entrambi se ne stupivano sul serio, sinceramente. E ciò spiegava perché era così facile per loro fingere lo stupore. La sera, davanti ai registri alberghieri per divertire i ragazzi. Come raccontare senza tradire? Come raccontare di quella brava donna sola con un bambino, nella stanza da pranzo di una pensione familiare, con la testa china sul piatto per tutta la cena e che alle 6 del mattino si incontra nel corridoio mentre esce dalla camera di Barsky? Di Barsky che non dirà mai verbo e al quale non si osa chiedere come si fa, ma che te lo spiega una sera, quando le ragazze sono già a letto e addormentate nella loro bella cameretta tappezzata di cretonne all'albergo delle Pées a Vannes. E che è una vera conversazione come non ne hai mai avute con tuo padre. E come raccontare uno della cameriera a colazione, l'altro della turista scozzese nel pomeriggio e il terzo di una campeggiatrice 2 giorni dopo sotto una tenda nel boschetto di Port-Louis, senza che le ragazze di casa si accorgano di niente, senza che Barsky e Gromov chiedano se ha cosa fatta, quando si brucia dal desiderio di dirglielo, talmente si è contenti e talmente erano stati utili i loro consigli. Guardare con insistenza un po' di sottecchi, sorridere, far ridere. E come raccontare del poker che si è imparato anche quello, e le messe che si fa finta di seguire a occhi chiusi per essere ben visti dal parroco, così convinto della tua fede che ti raccomanda le sue pecorelle, le quali, senza la sua benedizione, non aprirebbero i loro armadi. e che li spalancano perché è per uno spettacolo cinematografico sul signor De Charette e che è una buona cosa, è proprio al momento giusto, perché il generale Hoche e i soldati della Repubblica avevano assassinato più donne e bambini bretoni in Bretagna nel 1793 dei prussiani in Francia nel 70 e nel 74. E i bretoni non l'hanno mai dimenticato, anche se non se ne parlava mai a Parigi. E perché raccontare la grande paura il giorno in cui Josette per poco non è annegata sulla Côte Sauvage a Penthièvre? O la prima vera sbronza di Samy con il primo caffè salato somministrato da Gromov che gli regge la testa per aiutarlo a vomitare nel fossato lungo la strada. Ah, che pro raccontare del ridicolo berretto da giocatore di golf che a volte Barsky si mette in testa per fare cineasta e dei due cucchiaini d'argento con lo stemma della Duchesse Anne, sgraffignati al momento della frutta per insegnare al padrone a essere meno antipatico. Oppure la sera a Port-Navalò, dopo cena, quel tizio con i capelli quasi bianchi, incredibilmente bello con il suo pullover blu girocollo e che beveva da solo, fissando Josette e Zazà una dopo l'altra, sbattendo le palpebre un po' di sottecchi, sorridendo e senza dire una parola. E quelle due idiote che non volevano più andare a letto. Né partire da Port-Navalò l'indomani, col pretesto che la sorella del guardiano del faro aveva promesso a Zazà di trovarle il vestito da sposa della sua trisavola, che le avrebbe portato nel pomeriggio, proprio in quello stesso caffè dove l'aveva aspettata e dove non era venuta. E neanche l'uomo con i capelli bianchi. E Josette e Zazà avevano piantato il muso in macchina per 10 chilometri. E Gromov e Barsky avevano intonato Mon cœur est un violon sur lequel ton archet joue. E loro avevano finito per mettersi a ridere. Zazà aveva comunque sospirato che era un peccato, che Alex sarebbe stato talmente contento d'avere un vero vestito da sposa. E te poi, l'aveva stuzzicata Maurice. E lei gli aveva detto merda. E come raccontare l'ultimo giorno, l'acquisto dei due bauli di vimini per 4 cadaveri ma tagliati per il lungo, e poi gli acquisti un po' sciocchi di souvenir, di conchiglie per le madri e per Miriam, e le ultime crepe con il sidro, e l'ultimo albergo, e l'indomani, prestissimo, l'ultima colazione insieme, prima di prendere una strada lungo la quale non ci si sarebbe più fermati, come si sapeva, dato che non ci sarebbe stato niente da vedere che non si fosse già visto all'andata. E come dire a dei genitori a cui si vuole bene che era triste tornare e al tempo stesso molto allegro a essere in molti con dei segreti che non avrebbero mai condiviso. In viale Chateaubriand furono pulite e numerate le scorte bretoni in buono stato, poi gli stracci vennero smontati con cura. Tutti si estasiarono sugli intatti tesori che contenevano e sul fiuto e il talento della ragazzina che li aveva saputi scovare. Non sapevano bene chi fosse quella ragazzina di cui Alex aveva parlato, ma era molto, molto dotata. Stepan li sentiva estasiarsi. A dire il vero, la cosa gli piaceva e gli dispiaceva. Gli piaceva che Zazà fosse buona a qualcosa e gli dispiaceva di essere stato l'ultimo ad accorgersene. Gli dispiaceva soprattutto di essere stato messo davanti al fatto compiuto. Decisamente con Zazà era come con sua madre e con Sonia. Una mattina uno esce di casa salutando delle rifinitrici e la sera torna a casa da delle travestitrici. Uno è inquilino del secondo piano e si ritrova coinquilino al primo piano. Uno pianta femmina prestige e loro sono già cooperatrici. Uno ti manda una scolare in riva al mare e lei ti ritorna costumista. E fu nel sentire Ginette e la signorina Anita che parlavano di farla entrare nel laboratorio prima che si facesse assumere da qualche altra parte che, colto dal panico, annunciò che quella ragazzina tanto brava non era altri che sua figlia, ma che andava ancora a scuola, che l'aveva fatto durante le vacanze per divertirsi e che si sarebbe visto in seguito. C'era una cosa che Stepan non voleva, che a fatica confessava a se stesso perché la trovava mostruosa, ma era così. Come non aveva voluto lavorare in Rue de la Mare in compagnia della moglie, non voleva lavorare in viale Chateaubriand sotto gli occhi della figlia. Non dopo tanti anni passati a lavorare in Rue d'Aboukir sotto la mano di ferro del fratello. Quello che voleva Stepan era continuare a godere tranquillamente di ciò che era ancora talmente nuovo per lui, quel piccolo prestigio di cui non abusava, ma del quale Assaporava ogni istante quello di essere il solo uomo in un laboratorio di donne per le quali lui aveva le attrattive e il fascino degli uomini che non sono né il marito né l'amante, soprattutto non il padre. Voleva continuare a far sorridere con i suoi errori di francese, non farseli correggere. Voleva continuare a far finta di ignorare la passione della signorina Agnès, non farsi dire che era brutta e vecchia. Voleva continuare a poter complimentare la cameriera di Raymond e André per il suo bell'aspetto, sorseggiare eventualmente un ammazzacaffè, scendere bighellonando lungo gli Champs-Élysées, guardando le vetrine e anche le donne, fino a Marbeuf se ne aveva voglia, invece di prendere il metrò a George V. E voleva continuare a prendere tutte le mattine il metrò con Elia fino a République, ma solo con lui. Mica facile a dirsi tutto questo tornando stasera a casa. E poi, se aveva davvero voglia di lavorare sul serio, Zazà era pur sempre con sua madre Sonia, che avrebbe imparato meglio a casa Bonnet. Almeno così si sarebbe sempre saputo dov'era. Ma prima c'era da sistemare la faccenda della scuola. Ne avrebbe parlato a Olga quando Zazà fosse andata a letto. In fin dei conti aveva solo 14 anni, Zazà. E Stepan abbandonò per un attimo la ciapca di Astrakhan, dell'aiutante di campo del colonnello dei batelier della Volga, per andare ad ammirare le scoperte di sua figlia. «A occhio! Prende da lei, signor Roginski», disse la signorina Agnès, facendo luccicare alla luce le centinaia di minuscoli cristalli turchese e granato che bordavano il fondo di una lunga gonna di lana nera, peraltro tutta divorata dalle tarme. «Da me e dalla sua mamma», ebbe il coraggio di mormorare Stepan, ma così fievolmente da non essere sentito, giacché la signorina Agnès non rispose niente e neanche sorrise. «Oi, oi, si comincia già», brontolò Stepan, tornando al suo tavolo da lavoro. Si preoccupava davvero a torto. Zazà non aveva nessuna intenzione di andare a sedersi per cucire in viale Chateaubriand accanto a suo padre, né quella di rimanere seduta in Rue de la Mare per cucire accanto alla madre. Non aveva assolutamente nessuna intenzione di cucire. Lei si voleva muovere, salire nelle soffitte, scendere nelle cantine, fare pesche miracolose e caccia al tesoro, come aveva dimostrato di saper fare. Ma voleva anche di più, li voleva seguire quei tesori, là dove sarebbero andati, anche se non andavano molto lontani, per esserne la protettrice e la guardiana. In poche parole, voleva lavorare per la Copé, ma fuori, in altri termini, dentro il cinema, fosse pure quello che si girava all'aria aperta. E lo disse ad Alex e davanti a Olga. Alex trovò che era una buona idea, lo disse davanti a Olga, che lo annunciò a Stepan quando questi tornò a casa. Dopotutto stava per compiere 15 anni Zazà e dal momento che non voleva più andare a scuola, come Stepan doveva ben sapere, o più esattamente come Stepan avrebbe dovuto sapere se Olga, che se ne scusò, non avesse omesso di dirglielo 15 giorni prima quando la cosa era stata decisa, la sera della festa, poco dopo mezzanotte. Zazà ebbe il suo battesimo del cinema sulle rive della Marna, truccata da Volga con la qualifica di praticante. Né proprio vestiarista, né esattamente assistente, un po' vivandiera e fattorino, Zazà correva tantissimo e cuciva molto di più di quanto non avrebbe creduto di dover fare, ma quando cuciva era sempre in piedi, a grossi punti e a gran velocità, giacché era per ricucire qualcosa che si lasciava sempre andare proprio al momento di girare e che non aveva nessun bisogno di resistere all'inferno. Quando non li ricuciva, Zazà distribuiva i costumi ai battellieri muti, muti nelle scene si intende, ma molto chiacchieroni tra le scene a mensa, e senza alcun pudore aggiustava alla vita di ergastolani dello zar Nicola II le fibbie di rame delle cinture da Chouan, le cui iscrizioni celtiche da lontano potevano passare facilmente per cirilliche. Giacché, bisognava ben dirlo, fedele a una tradizione così a lungo in voga a maschere e bergamaschi, Ginette non aveva saputo resistere alla tentazione di fare un po' di noleggio batelier, prelevando dalle scorte Printemps Fusil, per il quale si seguitavano ad aspettare gli attori, parlanti e muti. Mentre si aspettava, dapprima si erano fatti lavorare gli stracci, poi a poco qualche prezioso motivo d'oro e di perle era venuto a impreziosire gli elegantissimi tailleur della moglie del colonnello dei batelier della Volga. I tesori non rimanevano sul busto della colonnella che il tempo di scena, finita la scena, venivano scuciti alla svelta e poi rimessi nella carta velina che manteneva quella freschezza che avevano saputo conservare così bene da un secolo e mezzo negli armadi bretoni. Era Zazà a scucirli, era sempre lei che seppelliva sotto la custodia di Rigatino Nero, non appena cadeva dalle spalle della colonnella, la cappa di Zibellino, senza la quale era chiaro che gli elegantissimi tailleur della colonnella non sarebbero stati altrettanto eleganti. Il primo giorno, arrivando, Zazà aveva detto che aveva 16 anni e che si chiamava Elsa, e poiché la trovarono divertente e simpatica, tutti la chiamarono Zazà. Quando non correva, non cuciva, non ricuciva, non scuciva o non appuntava con gli spilli, quando non apriva bottigliette di birra o non spalmava di rillette con cetriolini gli sfilatini di pane, quando non faceva bollire l'acqua su un fornellino a metà, quando non cambiava di posto le ceste, a Zazà capitava di sedersi a guardare. Non tanto gli attori muti o parlanti, quanto una persona che invece parlava pochissimo, ma mai per non dire niente, che si chiamava Mireille e che chiamavano Mimì, senza il cui parere apparentemente non si faceva niente durante le riprese e per la quale tutti gli uomini del film sembravano nutrissero un gran rispetto e un affetto fraterno. Ci vollero pochi giorni a Zazà per sapere che forse aveva incontrato la sua vera vocazione. Avrebbe cercato di essere script girl più tardi. E lo disse a Mimì, che aveva già capito dal momento che non le sfuggiva niente di ciò che le accadeva intorno. In viale Chateaubriand non si vedeva mai Zazà. In compenso si vedevano molto Barschi e Gromov, di cui si prolungava la collaborazione temporanea. Avevano a che fare con Ginette e la signorina Anita, perché erano diventati gli agenti di collegamento tra le rive della Marna Volga e la cooperativa dei costumisti. Erano loro che inoltravano e soprattutto rimpatriavano i noleggi a tariffa giornaliera. Più particolarmente i noleggi preziosi, quelli dei tesori bretoni, che bisognava riportare in ditta il più rapidamente possibile nel caso in cui la fantomatica troupe del signor Le Gogò si fosse finalmente presentata, o quello della cappa di Zibellino, di cui nessuno voleva assicurare la custodia durante le riprese, quando non recitava più sulle spalle della moglie del colonnello, la quale aveva anche lei la deprecabile abitudine di piantarla dappertutto, talmente faceva caldo in pieno agosto, anche all'ombra di una falsa betulla nei dintorni di Parigi. Poiché Ginette era finalmente felicissima di avere un autista, e poiché la signorina Anita, che di tariffe se ne intendeva, aveva apprezzato a suo giusto valore l'abilità di Barschi nel mercanteggiare, senza farne dei cooperatori, erano stati però assunti al mese. L'una e l'altra, incontrandoli, avevano avuto la vaga impressione di averli già visti da qualche parte, ma dal momento che né l'uno né l'altro avevano rinfrescato loro la memoria, avevano pensato ad altro. Affidando loro per la prima volta la custodia di Rigatino Nero, Ginette aveva raccomandato la massima attenzione e aveva tenuto una lezioncina sul valore degli zibellini, che erano di sua proprietà personale. Barschi aveva sorriso a Gromov, ma Ginette stava chiudendo con il lucchetto la porta della stanza delle pellicce e quel sorriso le era sfuggito. Si vedevano spesso in viale Chateaubriand, ma non facevano che passare. Entrando o uscendo, rivolgevano un piccolo cenno a Stepan quando la porta del laboratorio era aperta. Non entravano mai e Stepan preferiva così. Non era soddisfatto di avere Rue de la Mare in viale Chateaubriand, però era contento che fosse Rue de la Mare a riportare Zazà a casa la sera. Almeno c'è un po' di sorveglianza, diceva Ginette, come per giustificare il fatto che avesse accettato di lasciare che la ragazzina si divertisse ancora un po' prima di riprendere la via della scuola, come faceva ancora finta di credere. Sarebbe proprio un peccato che tornasse a scuola, commentava Ginette. E quanto alla sorveglianza, se vuole correre la cavallina sua figlia, mio povero Stepan, la correrà da sola, che sia a scuola o nel cinema. Per il momento, da quello che mi dicono, è davvero seria. Del resto basta guardare come si occupa dei miei costumi. Non ha perduto un bottone di ghetta. Naturalmente, Ginette voleva parlare dei bottoni bretoni, ma se inconsciamente evocava così la tragedia di Sedan, era perché viveva nel terrore dello scandalo che le pendeva sul capo. La sua frenesia di noleggi non aveva più limiti. Certi giorni in cui per le batelier c'era una folla di comparse, persino i cappelli rotondi, così difficili da utilizzare al di fuori di Joslin di Alphonse de Lamartine, avevano potuto essere distribuiti. Tra ammaccature, piume e velette, ne aveva fatto dei feltri da amazzone per una caccia al lupo nella foresta moscovita. A liberarla dalle sue angosce fu Laurent Verdon, che al tempo stesso liberò le scorte dagli obblighi di riserva. pronto a un fusil Gregoire, non si girava più. Troppo assorbito dalle sue fantasticherie d'artista, il signor Le Goff aveva trascurato i suoi doveri di biscottiere, tanto che un bel mattino si era ritrovato davanti ai cancelli chiusi, dietro i quali lo attendeva al gran completo il personale dei suoi biscotti Pomponette. Molto sorpreso, aveva letto nello sguardo di quegli uomini e di quelle donne la stessa caparbia determinazione che avrebbe tanto desiderato vedersi accendere negli occhi degli attori del suo film, quello che credeva ancora di poter girare prima di arrivare davanti alle porte dell'impresa familiare. Con un po' di ritardo sui loro concittadini, gli impiegati del signor Le Goff, che di padre in figlio e di madre in figlia avevano sempre impastato per i figli, i padri e i nonni Le Goff, avevano preso coscienza dei loro nuovi diritti. A Saint-Paul-Blazin, nella Loira inferiore, si faceva sciopero. Da tutte le altre parti gli scioperi erano cominciati fin dall'8 maggio. Trasformati in sciopero generale il 20, erano stati sospesi il 1 giugno con la firma degli accordi di Parigi. Erano ormai passati più di 2 mesi dall'avvenimento, ma l'hotel Matignon, sede del governo, non era a 2 passi. Non si sa se era per aver visto passare nei villaggi carovane di gente sui tandem, in bicicletta, in automobile, in moto, quando non era a piedi, e che cantavano arie mai sentite prima dalla bocca dei turisti, ma fatto si è che a Saint-Paul-Blazin la gente si era informata e per la prima volta nella storia del biscotto Pomponette. Gli operai pasticceri avevano ritrovato lo storico gesto dell'antenato Gregoire, avevano lasciato spegnersi i forni. Senza forche né fucili, la sola arma che brandissero dietro i cancelli era una copia della convenzione collettiva. Al signor Le Goff non rimaneva più che leggerla a sua volta, cosa che probabilmente aveva già fatto, ma con occhio talmente distratto che aveva completamente dimenticato di applicarne le clausole. Era tempo che ci si mettesse se non voleva perdere la stagione estiva. D'estate il biscotto impacchettato si vende bene. Era perfino probabile che quell'estate si vendesse anche meglio. Ne faceva fede la carta delle confezioni che si lasciavano dietro i nuovi turisti campeggiatori. Bisognava quindi riaccendere i forni e presto, prima che andassero a male le tonnellate di farina comprate a credito e le cui riserve si ammucchiavano sotto i capannoni della Pomponette. Riserve per riserve, tra il perituro e l'imperituro il signor Le Goff aveva scelto. I nostri amici della cooperativa dei costumisti saranno molto scontenti, avevano sospirato i due Verdon quando il signor Le Goff, con la morte nel cuore, aveva annunciato la decisione di rimandare a più tardi la realizzazione del suo affresco. Hanno mobilitato per voi i loro migliori specialisti, che si sono impegnati a fondo. Lei gli ha fatto perdere del tempo prezioso, aveva soggiunto Laurent, sobriamente corrucciato. Lo so, aveva tristemente ammesso il signor Le Goff. Lo sapeva, giacché, percorrendo per lui il territorio bretone, la Citroën del cinema, come veniva chiamata, aveva suscitato innumerevoli vocazioni, seminato innumerevoli speranze e lasciato molti ricordi la cui eco era giunta fino alle sue orecchie. Nel corso dei giorni della spedizione, l'annuncio dei suoi passaggi era volato di campanile in campanile. Arrivano! Sono venuti! Torneranno! Si sentiva nelle campagne, nei porti di pesca e nella landa. Ebbene, no, non sarebbero tornati. La Citroën del cinema era passata come passano le carovane, magica e promettente come in altri tempi e in altri continenti erano state le Citroën delle crociere nere e gialle, che non erano più tornate, neanche loro, ma che nessuno aveva mai dimenticato. Lo so, aveva ripetuto il signor Le Goff, ancora più tristemente, perché cominciava a rimpiangere un po' troppo tardi di non aver pensato ad attaccare l'insegna di Pomponette dietro la Citroën del cinema. Lo so, ho seguito da lontano i loro lunghi percorsi e i loro sforzi. Che posso fare per risarcirli? Un assegno, avevano risposto seccamente e insieme i fratelli Verdon, come se fosse del tutto ovvio. Siccome erano onesti, avevano consegnato l'assegno ad Alex, il quale l'aveva immediatamente versato nella cassa comune, quella che si erano costituiti senza fatica nel corso delle 12 settimane in cui, maggiorati al massimo, i loro insostituibili consigli tecnici e le loro incontrollabili note spese avevano sottratto per un certo periodo il biscottiere di Nantes alla monotonia della sua vita, aprendo a loro le porte della libertà. La libertà di fare finalmente un giorno il loro filmino a buon mercato, per le vie, dentro una fabbrica di biciclette, tra le pareti di una camera e su una spiaggia e in cooperativa. Alex annunciò che ormai si poteva disporre delle scorte e le go-go. Era dunque a cuor leggero e con la coscienza tranquilla che Ginette ora lasciava uscire e tornare le Bretonnerie alla stregua dei gondolieri veneziani, degli spazzacamini savoiardi e delle ballerine gitane. Con tutte le finestre spalancate, in quella fine di un pomeriggio estivo, dava aria ai grandi armadi delle riserve e faceva un po' di inventario. Un attaccapanni vuoto richiamò la sua attenzione. Il 92, l'Anna Karenina, non era mai più ritornato. Ginette contò sulle dita. Erano già 8 mesi. 8 mesi che Maddie era morta e che Victoria era scomparsa dalla vita di tutti loro. A Maddie pensava spesso, anche se non ne parlava mai, salvo a volte con Alex, ma solo con una parola o un sorriso. A Victoria non ripensava mai. E anche lì, davanti all'attaccapanni vuoto, pensò più al 92 sgraffignato da Victoria che a Victoria stessa. «La signora Victoria Jean ancora non ci ha reso Anna Karenina», disse alla signorina Agnès entrando nel laboratorio. Stepan non aveva alzato la testa. «Dovrebbe mandarle il signor Isidore per riprenderglielo. Lei le abbia mandato Luca per riprendersi il suo uovo di Pasqua», rispose la signorina Agnès con il suo vecchio sorriso di un tempo. «Il suo uovo? Ma io l'ho visto domenica scorsa nella vetrina di un rigattiere», rivelò una delle ragazzine. In Faubourg Saint-Honoré, Alex lo pagò molto, molto caro, di tasca sua, non con i soldi della Copé. Il padrone della vecchia Russia l'aveva sollevato quasi a malincuore dal suo zoccolo di velluto nero sul quale troneggiava in vetrina dal mese di luglio. «Un pezzo unico, lo rimpiangerò», aveva detto facendo funzionare il piccolo rubino grezzo. «Ah, ricordo di famiglia, una donna molto bella, una partenza per l'estero, troppo fragile da trasportare». La voce russa aveva sussurrato le parole per non coprire le note del clavicembalo e l'uovo di Fabergé si era aperto come un'arancia. Fu così che in viale Chateaubriand si seppe che non si sarebbe mai rivisto il 92 Anna Karenina e fu così che Stepan capì che probabilmente non avrebbe mai rivisto il fratello. Pensò a suo fratello. A causa dell'immagine di Janek che scompariva alla curva del viottolo fangoso con la mano alzata in un gesto d'amore per il ragazzino di 11 anni che rimaneva. E gli venne quasi voglia di piangere. Quel fratello infatti non lo avrebbe mai rivisto, per la semplice ragione che non l'aveva mai ritrovato. E il gruppo familiare di rabbia e di amarezza venne a prendere in fondo alla sua gola il posto dei singhiozzi che non avevano avuto il tempo di sciogliersi. La vecchia rabbia contro di lei che aveva fatto fallire tutto fin dall'inizio, lei che aveva voluto la guerra e che l'aveva vinta, senza battaglie, semplicemente scomparendo con quel fratello che lei aveva preso e mai restituito. Avrebbe dovuto morire, oppure essere infedele, andarsene con un altro uomo, oppure diventare brutta e che suo fratello si fosse messo a odiarla come lei meritava. Tutto questo poteva ancora succedere, ma Stepan non ci sarebbe stato per vederlo. Sarebbe successo troppo lontano. E Stepan si accorse che non aveva mai smesso veramente di aspettare il giorno in cui Janek gli avrebbe concesso finalmente il sorriso che aveva rinunciato a rivolgergli sotto le grandi vetrate della Gare de l'Est. Quel sorriso da ragazzo e quel bel gesto della mano che non poteva fare a meno di sognare certe sere sul marciapiede della linea Neuilly-Vincennes nel momento in cui il vagone rosso della prima classe stava per fermarsi davanti a lui. Si metteva lì apposta quelle sere perché era così che aveva allora immaginato le cose. Janek lo avrebbe scorto attraverso i vetri e sarebbe sceso svelto dalla prima per raggiungere Stepan prima che questi salisse in seconda e si sarebbero abbracciati. Né l'uno né l'altro avrebbero detto niente. Stepan avrebbe portato Janek in Rue de la Mar e tutto sarebbe cominciato come niente era cominciato in passato, per colpa di lei che non ci sarebbe più stata. Pensava a lei, non poteva darle nessuno dei suoi nomi. Intorno a lui, nel laboratorio, si parlava del ritorno dell'uovo del padre della signora Victoria e la signorina Agnès raccontava, per le ragazzine che non la conoscevano, la favolosa leggenda di Piotr, il Rodin della pelliccia e del suo rapimento in troica in una bianca notte a San Pietroburgo. «Non è vero, signor Roginski?» chiese la signorina Agnès voltandosi verso Stepan, che doveva saperlo, dato che era della famiglia. Stepan non rispose niente. Pensava ancora a lei? Si chiedeva che cosa lei avesse potuto inventare per convincere il fratello, venuto da tanto lontano, ad andare in qualche altra parte per cercare quello che già aveva trovato qui, quello che tutti avevano trovato qui, il pane e la libertà. La signorina Agnes ripeté la domanda. Non lo so, fece Stepan, che aveva seguito male la storia di Piotr. E dov'è quest'uovo? Al suo posto, in anticamera, disse la signorina Agnes. Stepan si alzò e andò in anticamera per guardare l'uovo sotto il suo globo da pendola. Sollevò l'uovo. Doveva ben avere qualcos'altro che la sua forma d'uovo, quell'uovo, si disse. Dopo aver scoperto il piccolo rubino non tagliato, scoprì l'uovo meccanico. L'uovo meccanico di Barsky e Gromov, quello per il quale suo fratello Janek aveva pagato l'equivalente del suo salario di 6 mesi in Rue d'Aboukir 10 anni prima. E Stepan scoppiò in una risata enorme. Meno enorme, tuttavia, di quella di Barsky e Gromov, quando Alex confessò loro, un po' dopo, il prezzo che lui aveva pagato per il loro uovo al padrone della vecchia Russia. Ormai è fatta. C'è sempre qualcuno per infiocchiare qualcun altro, disse Alex, ridendo anche lui, il che fece ridere Ginette. E poi, se dovesse andare male, si potrà sempre noleggiarlo, soggiunse questa facendo gli scongiuri. E perché dovrebbe andar male? La vita non è mai stata così bella, vero Stepan? Esclamò Alex, sbirciando verso il laboratorio la cui porta era rimasta aperta. Assolutamente, rispose Stepan annuendo. Bisognava veramente essere stupidi, come era diventato suo fratello, per lasciare un paese dove la vita era tanto bella.